Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a voi e ben ritrovati. Oggi una puntata che mi vede qui senza la mia Deborina, ma non per questo, non vi preoccupate, mancheranno i temi di denari. Come abbiamo anticipato nella scorsa puntata, oggi è il giorno di Telefisco, il convegno dell'esperto risponde, dedicato alle novità tributarie dell'anno, con la partecipazione degli esperti del Sole 24 Ore e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate Telefisco. E anche Radio 24 sta seguendo l'evento con un Radio Day ad hoc e darà nelle risposte alle domande degli ascoltatori al termine dei principali GR. Anche noi, per la parte di cuore, parleremo di tributi, anche se di altro genere. Tre mesi dopo, Fantozzi, di fronte all'immagine dell'inizio di un tragico declino fisico, decise di dimagrire. Dopo 90 anni di vita sedentaria, la sua parola d'ordine fu: Moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, la tua età. Ma che prudenza, ma che età? Pina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Oddio, mi sono bloccato. Dove ti fa male? La schiena. Qui? Sì, hai. Santo Dio, Ughino, lo sport non lo puoi più fare. E poi a me piace anche così. Allora, Ughini, all'ascolto, 800 24 00 24. Oggi parleremo dei tributi, delle tasse che paghiamo alle nostre passioni sportive. Vi suonerà strano, ma è proprio così. In più occasioni e da più esperti l'attività fisica è stata paragonata a un farmaco. Ebbene, proprio come tutti i farmaci, anche l'attività fisica ha effetti collaterali, controindicazioni, può creare dipendenza. Ne parleremo tra poco insieme al nostro esperto. Il nostro numero verde è già a vostra disposizione e quindi, se camminate, correte, andate in palestra, vi arrampicate, giocate a tennis, a golf, chiamateci e soprattutto state pronti a raccontarci che tipo di esercizio fisico, sport praticate, da quanto tempo, con quale intensità. Ma dateci anche notizia di come rispondono i vostri muscoli, le vostre articolazioni, di come si comporta il vostro cuore, che messaggi vi manda e se il vostro peso si è stabilizzato. Aggiungete anche se il vostro impegno è ripagato dai risultati e se le performance in questi ultimi mesi sono soddisfacenti. Ma oggi, come sapete, è giovedì e quindi andremo a scuola di risparmio. Nella seconda parte ci aspetta il consueto appuntamento con Investire Informati, la rubrica settimanale con tutti i consigli per la gestione dei nostri risparmi. E oggi torniamo a parlare di banche, le sentiamo nominare in tutti i titoli dei telegiornali, le vediamo in prima pagina e questo avrà stimolato in molti riflessioni, pensieri. Forse qualcuno sarà venuto in mente di cambiare banca. Allora, come si fa in questi casi a scegliere quale può essere il conto più adatto a noi? Ne parleremo con la nostra esperta, faremo il punto sulle nuove norme per la portabilità, cioè lo spostamento del conto da una banca all'altra. Qualcuno ricorderà che dal giugno scorso la burocrazia per questo tipo di procedura è stata ridotta e il passaggio dovrebbe avvenire entro 12 giorni lavorativi. Efficace quanto una pastiglia. Si potrebbero sintetizzare così i risultati di una mole di lavori scientifici sull'esercizio fisico, i cui effetti sul cuore e sullo stato di salute generale vengono paragonati a quelli di un farmaco. Allora, ne avete esperienza? 800 24 00 24, un numero per raccontarci se investire in esercizio fisico vi ha fruttato e quanto, o se al contrario ci avete rimesso. La puntata di oggi infatti nasce proprio con l'obiettivo di considerare gli effetti di questa medicina e quindi anche gli eventuali effetti collaterali, le controindicazioni e non ultimo il rischio di dipendenza, che ha dei segnali ben chiari che andremo ad analizzare nel corso di questa trasmissione con il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottor Confalonieri e bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Allora dottor Confalonieri, come un farmaco anche l'esercizio fisico deve essere appropriato nella sua prescrizione, in pratica deve essere quello giusto per noi, e noi oggi chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarci che sport o che esercizio fisico praticano, proprio per valutare se stanno assumendo la giusta terapia. Ma lei di quali informazioni ha bisogno per darci una mano? Ma direi che il paragone è assolutamente corretto, nel senso che l'esercizio fisico ha potenzialmente l'efficacia di un farmaco, ma anche le controindicazioni di un farmaco, e soprattutto noi dobbiamo essere in grado di scegliere il farmaco giusto per ciascuno di noi. non è che qualsiasi farmaco va bene, non è che qualsiasi esercizio fisico va bene. Io ho bisogno di sapere dai nostri ascoltatori, soprattutto se hanno iniziato magari non da molto a praticare esercizio fisico, se hanno trovato l'esercizio, l'attività, lo sport giusto e nei giusti dosaggi, o se, come ritengo, hanno sbagliato terapia, perché purtroppo la realtà di insomma fatto... sono degli ughini. Esatto, esatto. Non hanno seguito i consigli magari della Pina, che diceva guarda un po' come me, vai adagio, fai piano, perché in effetti è vero che la popolazione invecchia e quindi ha sempre più bisogno di muoversi per invecchiare meglio, è vero che tutti ci dicono e diciamo che l'esercizio fisico va bene, però è altrettanto vero che in Italia ancora l'85% della popolazione non si muove. Io sono convinto che gran parte di questo 85% ha provato, ma ha trovato il farmaco sbagliato o l'ha trovato nei dosaggi sbagliati, non è stata meglio, si è sentita addirittura peggio e quindi ha abbandonato. Vorrei proprio oggi scoprire insieme ai nostri ascoltatori se hanno avuto esperienze positive, perché fungano da esempio, ma soprattutto se hanno provato e non hanno trovato il farmaco giusto. Raccontatemelo. Allora, lei sarà la nostra Pina. Va bene, Va bene. Interpreto allora, questo ruolo. Allora, abbiamo paragonato quindi l'attività fisica a un farmaco, non l'abbiamo fatto noi, c'è una mole di studi a conferma, ma ogni farmaco ha la sua posologia, anche lo sport e lo sport dovrebbero essere consigliati tempi e modi, gradualità, dottor Confalonieri, una parola che lei ripete spesso, ed è una raccomandazione che invita a non esagerare, ma soprattutto ad andare a gradi, no? Chi va piano va lontano. Esatto, infatti noi dobbiamo scegliere lo sport giusto, iniziare con una posologia molto bassa, cioè iniziare facendolo poco, per tempi brevi e magari anche raramente nell'arco della settimana, perché una caratteristica che ha lo sport e che lo differenzia da tanti altri farmaci è che resta efficace soltanto se noi aumentiamo il dosaggio nel tempo. Mi spiego meglio. Sì. Un antipertensivo teoricamente funziona, se quel dosaggio è quello giusto funziona sempre con quel dosaggio, anzi a volte possiamo addirittura ridurlo perché siamo intervenuti a correggere altre problematiche. Invece l'esercizio fisico perde la sua efficacia se noi non siamo in grado di aumentare gradualmente quantità e qualità del lavoro che facciamo, quindi di aumentare il dosaggio. Ecco perché diventa importantissimo scegliere quello giusto e soprattutto scegliere la posologia giusta, iniziare con poco, piccole dosi, vedere se funziona e darci il tempo per aumentare gradualmente negli anni il dosaggio dello sport stesso, stando attenti poi a non cadere nell'altro effetto collaterale di cui si parlava, che è la dipendenza da esercizio. Di cui parleremo, ha dei segnali molto tipici, per cui se pensate di essere diventati dipendenti, chiamateci, raccontateci, e se vivete accanto ad un partner, avete un collega, un amico che sta diventando un po' ossessionato da questa passione, chiamateci 800 24 00 24. Dottor Confalonieri, parliamo anche degli effetti collaterali, no? Alcuni sono chiari a tutti e mi riferisco ai dolori muscoloscheletrici, al rischio di infortuni, dal mal di schiena alla fascita plantare, passando per l'ernia dello sportivo, sino alla sindrome della bandelletta tibiale, nota anche come ginocchio del corridore. Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, abbiamo dedicato a ciascuno di questi problemi intere puntate. D'altronde però è anche vero, dottor Confalonieri, che chi non risica non rosica. Ce ne occuperemo di questo nel corso della trasmissione, quindi se avete male iniziate a chiamare. Ma dottor Confalonieri, lei riuscirà a farci capire se il problema deriva dal tipo di attività sportiva oppure dalla posologia, quindi se il farmaco oppure se sono le dosi a creare un problema? Sì, anche perché questo è il punto fondamentale. Il farmaco sport ha una serie di effetti collaterali. I più conosciuti sono quelli cui accennava giustamente lei, quelli a livello dell'apparato osteomuscolare, articolazioni, ossa, muscoli, e questi sono legati o alla scelta dello sport sbagliato o a una nostra predisposizione, cioè abbiamo dei fattori di rischio per cui quello sport non può farci bene, o al fatto che tecnicamente non siamo in grado di interpretare correttamente uno sport. Per esempio, tutti consigliano il nuoto, ma se una persona non sa nuotare bene, sono più le controindicazioni dei vantaggi. Esistono poi anche tutta una serie di effetti collaterali, invece non legati ai muscoli, alle articolazioni, alle ossa, ma legati proprio all'organismo in toto. Cioè lo sport può anche far male a livello cardiaco e cardiovascolare se si eccede, può far male sul nostro equilibrio endocrino se si eccede, quindi creare degli squilibri di tipo ormonale, può far male a livello muscolare, può creare catabolismo muscolare, ridurre la forza, ridurre l'efficienza. Quindi attenzione, gli effetti collaterali sono diversi e in diversi ambiti. 800 24 00 24, spazio alle vostre telefonate. Vuole essere queste, come ci auguriamo tutte le puntate di Cuore Denari, una trasmissione di servizio, e quindi informare, ma darvi anche l'opportunità di portare le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre richieste ai nostri esperti per trovare, se non la soluzione, un'indicazione. E allora saluto Gaspare che ci chiama da Viareggio. Buongiorno Gaspare. Buongiorno a voi. Benvenuto. Allora, la mia esperienza è questa. Oltre 12 anni fa ho fatto un controllo generale, mi hanno trovato colesterolo alto e ipertensione. E da allora prendo delle pastiglie, sono sotto cura. Sì. Ho cominciato a sentirmi talmente bene che ho iniziato a fare tanto sport. Mm. Anche sport piuttosto pesanti, tipo d'estate facciamo arrampicate in montagna io e mia moglie, grandi camminate, d'inverno facciamo ski di ride, sci alpinismo, nuotiamo, ogni tanto mare, state fermi un po', Gaspare, qualche volta state fermi oppure siete sempre in movimento? Nelle stagioni intermedie, per esempio in autunno quando ci sono le castagne e i cachi o il tartufo. Allora Gaspare, si fermi con noi a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme con la sua domanda per il dottor Franco Confalonieri. L'aspetto tra poco. Cuore e denari. Allora, sportivi per passione, per necessità, sportivi della domenica, 800 24 00 24, un numero verde a disposizione di chi si dedica con regolarità a uno sport. Parliamo di esercizio fisico, l'abbiamo paragonato a un farmaco, un toccasana per la salute, perché un numero considerevole di studi scientifici lo dimostra, ma parliamo anche degli effetti collaterali e delle controindicazioni. Lo stiamo facendo col dottor Franco Confalonieri, che cercherà di dare una mano a Gaspare che ci ha chiamato da Viareggio, sintetizzando l'intervento di Gaspare in trattamento per il colesterolo, per la pressione. La terapia ha fatto effetto, si è sentito bene, ha deciso di dedicarsi all'attività sportiva e la pratica con entusiasmo e passione insieme a sua moglie. Gaspare, ho sintetizzato correttamente? Sì, perfettamente. La allora, mia domanda, la domanda era questa: siccome la torvastatina potrebbe provocare dei disturbi muscolari, io devo continuare a prenderla ovviamente per eliminare il colesterolo. Certo. Vorrei sapere il parere del medico. Grazie, grazie dottor Confalonieri. Sì, allora, diciamo che innanzitutto la scelta di Gaspar è stata corretta, che perché con ipertensione e colesterolo alto l'esercizio fisico aerobico, che è quello che lui fa, è il più indicato per ridurre entrambe le problematiche. Personalmente io rivaluterei con attenzione insieme al suo specialista se, considerata la vita più sana che fa e probabilmente i miglioramenti che ci sono stati sia con la pressione sia con il colesterolo, sia ancora indicato o necessario andare avanti con le statine, che si sono dimostrati farmaci molto efficaci nell'abbassare il colesterolo, però purtroppo con una serie di effetti collaterali estremamente significativi ed importanti, fra l'altro anche a livello dell'apparato muscolare. Quindi la preoccupazione di Gaspare è giustificata e il mio consiglio è: rivaluti con attenzione se non c'è la possibilità di ridurre o addirittura di eliminare l'utilizzo delle statine. 800 24 00 24 per capire se fate l'attività sportiva, l'attività fisica ideale per voi, se la praticate nei tempi e nei modi corretti. Esatto. Partiamo quindi dai risultati che state ottenendo, non solo a livello articolare e muscolare, ma sentiremo anche il cuore, osserveremo il peso e parliamo anche di quanto, se non viene praticata, l'attività fisica vi manca, se siete spinti proprio da questa necessità di andare a correre nonostante tutto, se saltare un allenamento per voi è veramente un peso nel cuore. Il nostro numero è a disposizione, ne ha approfittato Manuela che ci chiama da Grosseto. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei, Manuela. Buongiorno. Io ho chiamato perché pratico il nuoto tre volte a settimana faccio un paio di chilometri per ogni seduta e sto bene, cioè sono rilassata, tranquilla, anche i muscoli, però ho notato che qualche volta il mio metabolismo va e viene, cioè mi gonfio e mi risgonfio. Questo fenomeno si nota meno quando pratico regolarmente il nuoto. Però ecco, comunque mi infastidisce. Ecco, allora, e grazie. Poi volevo dire che ho anche una leggera ipertensione che si è manifestata all'epoca della menopausa e anche quando lavoravo, perché mi arrabbiavo spesso. Eccolo lì. Ne parleremo tra poco proprio di ipertensione con un grande esperto, dottor Confalonieri. Questo piccolo disagio è un disagio. Si può considerare un effetto collaterale oppure un utilizzo non adeguato della pratica sportiva? Le sue domande contengono già le risposte, ormai è troppo avanti. No, ma voglio dire, indubbiamente il nuoto è una scelta corretta, 2 chilometri tre volte alla settimana è anche un impegno abbastanza considerevole. Ragioniamo però sul fatto che nella migliore delle ipotesi questa attività porterà la nostra ascoltatrice a bruciare 1800-2000 calorie nella settimana, quindi l'incidenza rispetto a quelle che possono essere eventuali problematiche legate all'alimentazione, oltretutto in fase di menopausa, è relativa. Quindi un farmaco sì efficace, ma probabilmente non così determinante nel regolare le problematiche che in questo caso sono più direttamente legate alle abitudini alimentari su cui si dovrebbe intervenire. Allora, la nostra amica citava l'ipertensione. Noi abbiamo anticipato ai nostri ascoltatori che avremmo parlato della salute dell'apparato cardiocircolatorio, che dell'esercizio fisico si avvantaggia. Ci sono degli studi bellissimi sulla buona relazione tra attività aerobica e cuore, anche sugli effetti preventivi. Bene, sul sito della SIA, la Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, si legge: la pratica di esercizi che stimolano in modo apprezzabile il sistema cardiocircolatorio, jogging, nuoto, ciclismo, diminuisce del 35% la probabilità di sviluppare ipertensione arteriosa tra le persone che ne possono essere predisposte, ad esempio perché qualcuno in famiglia ne soffre o perché sono obese. La SIA continua: questo effetto preventivo si manifesta indipendentemente dalla presenza o meno di altri fattori di rischio, fumo ad esempio, o iperlipidemia. Inoltre è un dato che vale a qualsiasi età. E allora noi in linea abbiamo il piacere di avere il professor Claudio Borghi, che è anche direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, oltre che presidente della SIA. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, sul sito della SIA abbiamo letto questa buona notizia e volevamo commentarla con lei. Sì, è la verità, è esattamente una delle misure delle cosiddette modificazioni dello stile di vita che ha maggiore successo da questo punto di vista. In generale, il fatto di svolgere l'attività fisica viene sempre considerato un elemento dotato di grande prevenzione, ma nel campo dell'ipertensione arteriosa ha una duplice valenza, che è quella di contribuire a prevenire lo sviluppo di ipertensione, perché l'attività fisica mantiene attivi quei meccanismi che tendono a dilatare le nostre arterie, quindi contrastano uno dei meccanismi che fa aumentare la pressione, e al tempo stesso può essere un coadiuvante della terapia, perché non è vero che nel momento in cui i pazienti incominciano ad assumere una terapia antipertensiva, quella gli assicura il successo indipendentemente da tutto il resto. Il successo della terapia si potenzia di molto se uno lo associa a uno stile di vita adeguato, e in questo ambito l'attività fisica svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Professor Borghi, oggi stiamo cercando di parlare anche di dosi, insomma di posologia, quindi anche per il benessere del cuore non basta scegliere un'attività sportiva, bisogna anche scegliere quella giusta e praticarla nei tempi e nei modi giusti. Partiamo dal nuoto, ci dà qualche indicazione? Beh, il nuoto sicuramente è uno sport fondamentale. Io fra l'altro sono stato nuotatore dall'età di 6 fino a 14 anni a livello agonistico, per cui ho un mio legame di doppia valenza con il nuoto. L'ho praticato molto e alla fine l'ho odiato, perché è uno sport che purtroppo dal punto di vista agonistico è estremamente impegnativo, ma fatto a un livello preventivo è sicuramente importante. Credo che praticare il nuoto C'è chi lo fa, che lo pratica praticamente giornalmente, questo logisticamente è difficile, ma diciamo 2-3 volte alla settimana, se uno sceglie che quella sia la sua attività principale, facendo un paio di chilometri in piscina, naturalmente senza forzare la mano in maniera eccessiva, quindi senza impegnarsi al di là di un certo livello, possa essere uno dei meccanismi attraverso i quali controllare la pressione. Professor Borghi, vuole intervenire il dottor Confalonieri, che, voglio dire, con il nuoto ci va a nozze. Certo. Sì, perché voglio sottolineare una cosa molto corretta, proprio che propongono questi opuscoli, questi interventi della SIA del professor Claudio Borghi, cioè il fatto di sottolineare come il nuoto risulti efficace se praticato tecnicamente in modo corretto. Quindi, piuttosto che nuotare in modo continuato, il consiglio che io mi sento di dare in accordo col professore è proprio quello di nuotare a lungo, ma facendo pause regolari ogni vasco ad ogni due vasca di 10 o 15 secondi che ci consentono di controllare bene la tecnica. E un ultimo inciso rapidissimo: in acqua possiamo anche camminare. Moltissimi non fanno non sono capaci di nuotare, ma devono lavorare in acqua, in quanto in assenza di peso si sta sempre più diffondendo l'abitudine a camminare nell'acqua, che risulta estremamente indicata anche per ridurre la pressione arteriosa. Allora, noi adesso dobbiamo dare la linea, e lo facciamo con piacere naturalmente, alle notizie del nostro GR. Ritorniamo insieme con il professor Borghi per delle indicazioni salvacuore, con il dottor Franco Confalonieri. Mano al numero verde, io vi aspetto. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. Allora muoviamoci, seconda parte di Cuore Denari, ma muoviamoci con gradualità, perché anche in questo caso, anche per l'attività fisica, gli eccessi si pagano, presentano un conto che può essere anche molto salato. In linea con noi abbiamo il professor Claudio Borghi, presidente della SIA, in studio il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Professor Borghi, muovi il corpo, attiva il cuore. Tra l'altro questo è il titolo di un opuscolo firmato da lei, molto interessante, che ho trovato su internet e che mi è piaciuto molto. La ringrazio anche per l'interesse. Sì, è un opuscolo che tende sostanzialmente a semplificare le cose, dicendo ciò che può essere giusto fare in linea generale e ciò che può essere sbagliato fare. È un opuscolo che ha avuto un certo successo, certo, proprio perché viene distribuito in associazione con altri consigli sulla terapia o sulla prevenzione dell'ipertensione, certo. Oggi vogliamo dare ai nostri ascoltatori delle indicazioni per, attraverso l'esercizio fisico, garantire e promuovere e mantenere la salute del loro cuore. Abbiamo parlato di nuoto, adesso andrei in bicicletta, no? Tra l'altro pedalare regolarmente è una delle attività più efficaci per tenersi in forma. Certo, poi ha un grande vantaggio di essere ecologico e quindi necessariamente di ridurre tutte le emissioni nell'ambiente, quindi ha una serie di vantaggi sostanziali. Direi che andare in bicicletta è certamente una delle attività fisiche più rilevanti e quelle che vengono più suggerite in termini di prevenzione cardiovascolare, perché dà una attività piuttosto rilevante sia all'apparato cardiovascolare sia ai polmoni, quindi mette in moto tutto il sistema cardiopolmonare e che è quello intorno al quale ruotano poi i meccanismi legati all'ipertensione arteriosa. Naturalmente in questo caso è importante, come sempre, farlo in maniera regolare, farlo compatibilmente con la propria disponibilità di risorse dal punto di vista fisico e ovviamente non impegnarsi in attività agonistiche quando non si è in condizioni fisiche adeguate, ma una bella passeggiata in bicicletta e spostarsi in bicicletta ogni volta che è possibile, sicuramente è uno degli esercizi che ha maggior rapporto con la possibilità di ottenere un beneficio dal punto di vista cardiovascolare. Professor Borghi, chiudiamo con una bella passeggiata, camminare a buon ritmo, a praticare una corsa lenta e soprattutto no, in ambienti in cui l'aria è pulita rappresenta un'alternativa efficace anche alla palestra per certi versi. Assolutamente, io lo direi sicuramente vantaggioso rispetto alla palestra. Teniamoci la palestra per i giorni nei quali il tempo atmosferico non ci permette di uscire, gli altri giorni camminiamo 30 minuti al giorno per almeno 4 giorni la settimana di buon passo, è una specie di formula magica che funziona in maniera straordinaria, ma studi recenti pubblicati su Lancet, quindi su una rivista assolutamente autorevole, dicono che anche 15 minuti, se condotti di buon passo, rappresentano il livello oltre il quale noi possiamo derivare un beneficio dal punto di vista cardiovascolare. Non credo che nessuno di noi veda modificare in maniera radicale la propria vita per non poter fare 15 minuti di buona passeggiata durante il giorno. Professor Borghi, prima di salutarla, il nostro cuore ci manda dei segnali quando certo. No, acceleriamo il passo, quando pratichiamo magari un esercizio in palestra. Quali sono i segnali che dobbiamo conoscere e saper individuare, perché potrebbero essere dei segnali un po' di pericolo o segnali attraverso cui il cuore ci manifesta un suo disagio, una sua stanchezza? Certo, beh, ce ne sono alcuni che sono francamente legati al mondo delle malattie, ad esempio il dolore che compare al centro del torace quando si cammina potrebbe essere indicativo di una malattia coronarica, quindi di un difetto importante del cuore, il dolore che compare alle gambe quando si cammina potrebbe essere indicativo di una malattia dei vasi, degli arti inferiori e quindi un problema vascolare importante. Poi ci sono una serie di segni più semplici di disagio che sono soprattutto l'aumento eccessivo della frequenza cardiaca, quindi del battito cardiaco, e la percezione del battito cardiaco, il cuore che batte e mi esce dal torace ad esempio, che in questo caso potrebbe non essere sintomo di qualcosa di patologico ma semplicemente del fatto che stiamo facendo un esercizio eccessivo rispetto al nostro livello di allenamento. Di solito, questo è quello che si fa anche negli sportivi, si percepisce il livello di allenamento proprio sulla base della risposta del cuore. Quando questo avviene basta rallentare un pochino, impegnarsi in maniera più progressiva nei giorni successivi e il nostro e cuore voilà. Non ci scoppierà più dentro il petto, ritornerà al suo posto dove è dedicato a stare. Grazie professor Borghi, buona giornata. Grazie a voi, grazie sempre, buona giornata a voi. Dottor Confalonieri, allora noi abbiamo una batteria di ascoltatori che aspettano le sue indicazioni e le sue risposte, da cui lei prenderà naturalmente spunto per dare delle indicazioni anche a livello generale. Inizierei con Fulvio che ci chiama da Modena. Buongiorno Fulvio, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno. Eccoci Fulvio. Vado. Io volevo chiedere, io ho 52 anni e purtroppo passo molta parte della mia vita in macchina, sì. Già da molti anni, e in auto per motivi di lavoro. E, circa un 3 anni fa, senza alcun suggerimento medico, perché fortunatamente non ho alcun tipo di problemi particolari, più per un fatto di testa, diciamo, psicologico, ho cominciato a correre. Bravo. Ho cominciato a correre un circa 2-3 anni fa, proprio per liberarmi, anche più per un fatto di testa, ripeto, di essere sempre seduto in macchina, la corsa mi dava questa possibilità. Venga la domanda, perché abbiamo veramente i nostri centralini che stanno impazzendo. Ho cominciato con una volta a settimana, con 20 minuti, sono arrivato poi a 40 minuti, oggi sto cercando di portarmi a 2 volte a settimana, e supero l'ora praticamente, un'ora e 10 per 8-10 chilometri alla volta. Ho letto sulle riviste di settore che non serve a nulla farlo 1 o 2 volte a settimana, quindi volevo chiedere, sto facendo qualcosa che non serve a nulla? Inutile, grazie, bella domanda. Sicuramente non rischia di diventare dipendente dalla corsa. Non rischia di diventare dipendente, ma invece è assolutamente utile. Anche una volta solo alla settimana, 20 minuti, 30 minuti sono molto più di zero, quindi va benissimo anche partire da così, anzi io consiglio sempre di partire 1-2 volte massimo e lasciarsi lo spazio per incrementare, continui così che va bene. Allora, corsa, effetti collaterali, a chi è indicata? Iniziamo a fare un po' una sorta di specchietto. A chi la consigliamo? Quali possono essere le controindicazioni o le persone, le condizioni che ci dovrebbero, no, spingere a scegliere un altro sport? Allora, innanzitutto, meglio il cammino veloce ed eventualmente il cammino veloce alternato con la corsa che non la corsa subito. Attenzione a partire con la corsa. Controindicazioni per tutti i soggetti in sovrappeso, anche non importante, e per chi soffre di patologia articolare, in particolare a livello del ginocchio, delle anche o della colonna lombosacrale. Allora, salutiamo intanto Veronica, le diciamo di prepararsi perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. No, non c'è Veronica, le ho fatto uno scherzetto. Veronica, buongiorno. Sì, le strade buongiorno. Non ci sono, ma c'è lei con la sua domanda. Grazie. E tra poco ci sarà Yuri Kechi. Veronica, allora. Allora, la mia domanda è questa. Io ho 55 anni, da un po' di tempo ho scoperto lo yoga, mi sto praticando lo yoga e vorrei sapere se è necessario aggiungere un'attività aerobica, perché ho difficoltà. Io sono una ex nuotatrice, ho nuotato per tantissimi anni, però adesso ho una certa avversione a tutto ciò che è aerobico. E volevo sapere, ci sono tanti tipi, tante forme di yoga, noi diciamo sì, yoga, sì, ma facciamo, ecco, però intanto per intenderci, molto no, bella. La mia, la yoga che faccio è una yoga abbastanza semplice, okay. Quella di, per l'elasticità e un po' di moto. Ok, domanda opportuna anche questa. Quando parliamo di sport non pensiamo solo agli sport aerobici o agli sport impegnativi, esercizio fisico è anche yoga, è anche pilates, è anche rilassamento, è anche stretching, assolutamente utile per tutte le patologie a livello articolare, a livello muscolare, a livello osseo, sia in termini preventivi che in termini terapeutici, assolutamente utile per la muscolatura respiratoria e indirettamente a livello cardiovascolare. È chiaro che se ci sono problematiche di sovrappeso o di ipertensione, quelle che accennavamo prima, allora lo yoga non è il farmaco più indicato, ma andrebbe inserita un'attività aerobica, magari non in acqua, visto che ormai dell'acqua la nostra ascoltatrice sembra satura. Allora, intanto ne approfittiamo per ricordare, come invita un ascoltatore che ci scrive un messaggio al 349-238-6666, che per evitare il fai di te possiamo farci aiutare da diverse figure professionali. Il nostro amico ci ricorda e ci invita a sottolineare il ruolo della figura professionale dello specialista dell'esercizio, dottor Confalonieri, ovvero i laureati in scienze motorie, che possono dare un supporto alle persone che in condizioni di salute possono, no, decidono di praticare attività fisica, e anche i laureati magistrali, che possono anche aiutare, essere utili nel suggerire sì. esercizi e alle persone che magari presentano qualche problematica. Li abbiamo ricordati, li abbiamo invitati anche in più occasioni. Oggi abbiamo il dottor Franco Confalonieri, che è medico sportivo, ci teniamo lui. No, anche perché la nostra pina. L'ideale è lavorare in equip. Bravo. Medico sportivo e laureato in scienze motorie. Voilà. E andiamo a Vito, che ci chiama da Brindisi. Vito, buongiorno. Salve, buongiorno. Com'è? Pronto? Sì, com'è Vito lì? Come sta? Qui a Brindisi? Sì. Il tempo è buono. Vedi. Allora, arriviamo alla domanda, Vito. Sì, io vorrei chiedere al dottor Confalonieri sì. se è un dato scientifico il fatto che uno sport può creare dipendenza. Io corro da 17 anni, sono maratoneta, ho fatto la migliore prestazione, ho fatto 30 maratone, tra cui 2,39 l'ho chiusa come quasi a livello semiagonistico, però ho questa dipendenza da questa disciplina che se non corro lei, lei non corre, cosa sente? Niente, io se non corro inizio ad avere nervosismo, stati di agitazione, insomma, tutto il metabolismo gira intorno. C'è alla una corsa. Sorta di smania, tanto che la moglie dice: Vito, prendi le scarpette, vai sì, a farti brava, una cosa, vero? Parte, ecco. Giusto. Allora, Vito, allora, dottor Confalonieri, tra gli effetti, abbiamo parlato di effetti collaterali, di controindicazioni, dei segnali da non sottovalutare, ci ha aiutato anche il professor Borghi, vogliamo parlare anche di dipendenze. È vero che in Italia sono ancora poche, troppo poche le persone che praticano un'attività sportiva, ma molte di queste smettono di praticarla perché la praticano male, e c'è chi invece continua e ne assume dosi esagerate, quindi non è corretta la posologia e c'è una dipendenza. Bravissima, c'è entrato in pieno il problema. Manca un po' la persona che fa sport con buon senso: o si fa, si sbaglia, si abbandona, o si fa troppo. Lo sport crea di fatto una dipendenza, perché l'attività fisica modifica tutta una serie di equilibri ormonali, modifica il nostro asse neuroendocrino, libera tutta una serie di sostanze e l'arresto, lo stop, riduce i livelli nel sangue di queste sostanze e quindi crea di fatto uno stato di tipo simil-depressivo. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non esagerare, e indubbiamente il nostro ascoltatore, se corre la maratona in 2:39 e non deve essere giovanissimo, fa uno sport a tutti gli effetti agonistico in modo importante. Allora, ve l'avevo anticipato, possiamo dare il benvenuto a un grande amico di Cuore Denari. In linea con noi abbiamo Yuri Checchi, il signore degli anelli. Ciao Yuri. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, a te e ai tuoi radioascoltatori. Porto i saluti tuoi anche a Deborah, che oggi non c'è ma torna domani. Sicuramente, pluricampione mondiale, campione olimpico, uno degli sportivi italiani più titolati, anche uno dei più amati. Allora Yuri, noi oggi stiamo cercando di un po' stimolare i nostri ascoltatori a decidere di lasciare il divano e la poltrona e mettersi, no, un po' le scarpette o andare a fare una passeggiata, muoversi un po'. Dall'altra parte, col dottor Confalonieri, siamo partiti da alcuni studi che hanno evidenziato che se è vero che l'attività fisica è paragonabile ad un farmaco, bisogna scegliere quella giusta e praticarla nelle giuste dosi. Allora, chi meglio di te poteva darci una mano in questa nostra sfida? Quali sono le indicazioni che tu puoi regalarci? Ma quelle un po' che avete sicuramente già detto, anche con nozioni più diciamo scientifiche, ma io vorrei dire che non ci vuole poi tanto, diciamo, a fare un'attività motoria, un'attività fisica che consenta di stare bene con il proprio corpo e la propria testa. È importante, come hai fatto tu, l'esempio giusto della medicina che deve essere data da un medico capace. Anche in questo caso lo sport deve essere in qualche modo fatto da persone che sono in grado di consigliarti la migliore dose di sport e come praticarlo e quanto praticarlo. Quindi basta davvero trovare del tempo durante la giornata, dai 15 alla mezz'ora massimo, in maniera più continuativa possibile, fatto da persone che ti sanno indicare gli esercizi e l'attività migliore, e si sta troppo meglio. Cioè è davvero una grande medicina, come dicevi te, e costa niente. Questo non è da sottovalutare. Poi Yuri, credo che sia importante, chiedo conferma anche a te, al dottor Confalonieri, imparare ad ascoltare un po' il nostro corpo. Dottor Confalonieri. Fondamentale. Non solo il cuore. No, ascoltare il corpo, ascoltare i muscoli, ascoltare i nervi, e lo sport oltretutto ci aiuta a tornare in relazione, a rimetterci in relazione con il nostro corpo, e quindi diventa anche uno strumento fondamentale per incrementare la nostra autostima e il nostro benessere globale, proprio perché riscopriamo un rapporto migliore con la corporeità. Questo è un aspetto che è importantissimo sottolineare, per esempio quando uno inizia a fare attività fisica anche per perdere peso, perché di colpo ha voglia di occuparsi di nuovo del proprio corpo. Abbiamo detto che l'attività sportiva può funzionare come un vero e proprio farmaco, a volte è migliore della pastiglietta, ma può essere davvero di grande aiuto anche in presenza di alcuni disturbi, alcune patologie. Yuri, voglio ricordare che tu sei stato testimonial della giornata del Parkinson, sì. Nella giornata si è sottolineato il ruolo preventivo e terapeutico dell'attività fisica, perché riduce il rischio di ammalarsi nelle persone sane, ma per chi ha ricevuto una diagnosi rimanere attiva insieme alle terapie più avanzate e sicuramente un approccio multidisciplinare può contribuire a rallentare la progressione della malattia. Ne abbiamo proprio dedicato con te una puntata al Parkinson, e soprattutto migliorare anche la qualità della vita, direi, in tutte le sue fasi. E quindi ancora una volta il movimento fa bene alla salute, fa bene alla salute anche delle persone che si confrontano e convivono con una malattia. Yuri, ci puoi raccontare la tua esperienza? Sì, beh, tu la conosci, ma è stata davvero un'esperienza fantastica che credo proseguirò, perché quando riesci a capire che attraverso lo sport puoi migliorare la qualità delle persone che hanno delle patologie importanti come quella del Parkinson e soprattutto delle persone che vivono giornalmente con queste persone, perché se sta meglio il malato sta meglio anche il caregiver, no? La certo. persona di riferimento, il familiare. E beh, questo è una grande soddisfazione e abbiamo visto con prove concrete, quindi con un allenamento insieme ad una chiara alimentazione, chiaramente un'alimentazione giusta e la parte farmacologica che è necessaria, però un miglioramento davvero immediato se è fatto un'attività motoria specifica per quella patologia. È stata una grande soddisfazione che, ripeto, seguirà. Ma lo sport è questo, Beh, poi è vero, quando si fa per stare meglio anche col proprio corpo c'è un'autostima che migliora, è veramente una medicina importante. Paul dice uno che insomma fino a poco tempo fa ha fatto sport di alto livello e il fatto di capire che poi il corpo si modifica ma che con lo sport un pochino riesce a tenerlo in buona condizione è davvero molto importante. Dottor Confallonieri, anche lei ha avuto delle esperienze molto interessanti. Importantissime questa cosa che ha sottolineato adesso Yuri. Lo sport è fondamentale anche per i malati, per esempio per i malati di Parkinson, per esempio per tutte quelle patologie tipiche dell'invecchiamento, che è una delle caratteristiche della nostra società. E io per esempio ho avuto invece grandissime soddisfazioni occupandomi in modo sistematico di chi soffre di sclerosi multipla o patologie analoghe, persone che attraverso l'esercizio fisico sono riuscite a rallentare l'evoluzione della malattia e a gestirla sicuramente in modo molto molto migliore. Yuri, vogliamo salutarci con un invito alle persone che ancora si trovano mille una scusa per rimandare, per non muoversi mai, e naturalmente anche però una raccomandazione a chi pratica sport perché lo pratichi nel modo giusto per prenderne tutti i vantaggi. Deve essere proprio una sorta di regola di vita, un ingrediente, un additivo per il nostro benessere. Quello sicuramente di avere la consapevolezza che attraverso lo sport fatto bene, come avevo detto più volte, si sta meglio e quando si sta meglio tutto il resto va meglio. Io credo che sia molto importante farlo anche con divertimento, cioè avere la curiosità e la voglia di provare magari degli sport non pensando all'aspetto agonistico, almeno in questo caso sì. Non dovrebbe essere questo. Non è che dobbiamo diventare Yuri Kechi, no? Meno male. Tanto ce n'è stato già uno, noi siamo a posto, abbiamo già dato Yuri. Esatto, fantastico. Non ci pensiamo. Ecco, Yuri, no? Le medaglie le ha vinte lui, noi possiamo divertirci, cambiare po', variare. Hai centrato il punto. Io credo che sia l'aspetto fondamentale del divertimento, l'aspetto ludico, cioè lo sport deve anche divertire, forse. Cercando e trovando uno sport che diverte, ci viene anche la voglia di farlo più spesso. Quindi ecco, provate i vari sport e poi iniziate con quello che più vi fa divertire, vi fa sorridere, vi fa star bene. Grazie, questo è un consiglio di un grande campione che noi abbracciamo e ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Yuri. Grazie Nicoletta, grazie a tutti voi. Ti saluto Deborah, dottor Confallonieri. Vuole aggiungere una nota conclusiva a questa prima parte di Cuore Denari, prima che noi passiamo ai mercati e poi al nostro conto corrente? No, direi che l'indicazione di Yuri è stata fondamentale. Scegliamo uno sport che ci diverta e scegliamolo in modo compatibile con la nostra vita. Se fare esercizio fisico diventa uno stress, il farmaco non funziona più, lo abbandoneremo e quindi la terapia sarà fallita e resteremo in quel 85% di italiani che a tutt'oggi non fanno sport in modo regolare. Un'altra raccomandazione: quando il nostro fisico si lamenta, non stringiamo i denti per continuare a fare attività sportiva, fermiamoci e cerchiamo di capire che cosa ci sta dicendo il nostro corpo. Si diceva prima, ascoltiamo il nostro corpo, dobbiamo stare meglio con il nostro corpo. Se il nostro corpo ci manda segnali di dolore, di fatica eccessiva, vuol dire che quello che stiamo facendo non funziona. Dobbiamo capire con gli esperti, come si diceva, se abbiamo scelto lo sport sbagliato o se forse stiamo facendolo nel modo sbagliato. Dottor Confallonieri, la ringraziamo per essere stato grazie con noi. Un grande successo, i nostri ascoltatori stanno continuando a chiamare, ma sono pronti anche per il secondo tema di Cuore Denari. Oggi è giovedì, c'è la nostra scuola di risparmio, si porta il conto corrente da una banca all'altro, se si desidera o magari si decide di aprire un nuovo conto, lei è pronto e preparato?